RadioTube Social Network. 17:06 minuti e 3 secondi a Radio 24, la seconda ora del nostro RadioTube in diretta. Allora, nella prima ora di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di musica con John Thiele, che esce in questi giorni con il suo Operazione Oro. E sul serio, io tutte le settimane cercherò di sostenere i musicisti che decidono di uscire con un progetto nuovo in questi giorni. Davvero non è facile per loro, perché immaginatevi, non c'è la promozione di prima, non ci sono le conferenze stampa, non ci sono le pagine dei giornali, la gente è chiusa in casa, non ci sono le ospitate, e quindi sono delle scommesse, degli azzardi, quelle di uscire con un nuovo disco. Ma non solo l'arte ha bisogno a tutti i livelli di essere sostenuta, ma anche l'industria culturale, che avrà grossi e ha già grossi problemi come tutto il resto. Abbiamo parlato di serie TV, vabbè, anche un po' piccantine, anche se mi hanno rassicurato che quella che sembrava più piccante in realtà era romantica. Non lo so, comunque andate a riascoltarvi la prima ora, perché è successo veramente di tutto nel nostro RadioTube. Abbiamo parlato dell'arrivo di una nuova piattaforma, che è Disney Plus, ovviamente con grande affetto, ma si sa che quando c'è il nome Disney a tutti vengono gli occhiettini a cuore. E all'inizio abbiamo parlato con Edoardo Pesce, che il 24 sarà su Rai 1 Alberto Sordi in un film TV, quindi una bella sfida. Sono arrivati un sacco di messaggi. Ah, c'è un messaggio in particolare che, siccome poi mi sono un po' arrabbiata, perché qualcuno dice: parlate di cose frivole in momenti tristi, basta, non voglio più tornare sulla polemica. Ma qualcuno chiede se trasmettiamo da casa o trasmettiamo dalla radio e perché. Allora, per il momento, toccando ferro, riusciamo ancora a trasmettere in diretta dagli studi di Radio 24, e qua stiamo toccando ferro, anche Roberta in regia tocca tutto il ferro possibile, con le massime precauzioni di sicurezza possibili. Cioè, proprio siamo a lontananza siderale. Io poi, quando arrivo, i miei colleghi mi riconoscono, perché io spruzzo detergenti, candeggina dappertutto, che sempre Ghostbusters. Scherzi a parte, per una parte del lavoro riusciamo anche a fare lo smart working, e questa cosa io la vivo come un grande privilegio, perché davvero, insomma, credo che sia, cioè, è più complesso, è un lavoro più faticoso per quanto riguarda il nostro, però è un grande privilegio anche passare alcuni giorni della settimana a casa. Ho risposto al messaggio perché sapete che mi piace essere estremamente sincera e chiara con gli ascoltatori, anche quando mi arrabbio. Ogni tanto fa niente, ma abbiamo una seconda ora da portare a casa. Allora, la seconda ora è sempre quella dell'attualità della rete e dalla rete. Ha preso proprio un respiro e un sapore diverso in queste settimane, perché ormai attraverso la rete sta passando quasi tutto. Chiusi in casa ci passa quasi tutto attraverso la rete. È proprio un mondo diverso quello che ci sta tenendo compagnia in RadioTube Social Network nelle ultime settimane. Come sempre un co-conduttore d'eccezione, purtroppo anche questa settimana, ma non vediamo l'ora davvero che possa andare tutto bene, come ci ripetiamo da tempo, quindi ancora a distanza, ma chissà, prima o poi saremo insieme in uno studio radiofonico. Sono molto molto contenta di tirare fuori dalle pagine del foglio e di portare qui a RadioTube David Allegranti. Ciao David! Ciao Marta, ciao, grazie. Senti, dell'invito. Firenze com'è? Ma guarda, io in realtà sono a Roma. Ah, sei a Roma? Io la nostra redazione del Foglio è a Roma. Naturalmente siamo tutti a casa. Naturalmente, insomma, è un privilegio anche questo che abbiamo, di poter stare a casa e di poter lavorare da casa in sicurezza. E io sono a Roma, sono a casa mia da 2 settimane, dove sto lavorando e scrivendo e seguendo questa emergenza sanitaria. Da Firenze non torno da un po', e seguo con apprensione, naturalmente, perché ognuno ha i suoi affetti, certo, sparsi in giro per l'Italia, e con Firenze compresa, che insomma è casa mia, e niente, sto facendo anch'io il mio lavoro appunto in smart working, lavorando e tenendo contatti con la mia redazione, perché insomma fortunatamente possiamo lavorare così, non tutti possono lavorare così e questo lo capisco, ecco, sì, capisco. Questo è già un grande privilegio. Quando io posso farlo lo vivo come un grande privilegio. Allora David, ci sono tanti argomenti. Ah beh, un ascoltatore al 349-238-6666 fa una battuta veramente bella, talmente bella che ripete tre volte. Tra poco si trasmetterà dall'obitorio. Complimenti, una battuta veramente bella, intelligente, simpatica. Bravo, bravo, molto bella, piaciuta molto. Allora, vabbè, si continua a fare la storia, purtroppo. Avremmo preferito non farla, David. Cioè io avrei preferito far parte di una generazione totalmente dimenticata e incapace di segnare la storia dell'umanità, diciamo così. E invece ci tocca fare vedere cose completamente diverse che fino a qualche tempo fa non avremmo immaginato. Allora io vi faccio sentire un audio, purtroppo... capirete subito a che video si riferisce. Sono i carri armati, sono i mezzi militari, non i carri armati, i mezzi militari che attraversano la città di Bergamo in un corteo impressionante. È un corteo funebre di fatto, perché stanno trasportando le bare che non possono più essere accolte dalla città perché ci sono troppe vittime. Io credo che quel video girato nottetempo, ovviamente questa cosa è stata fatta in maniera molto discreta, credo che questo video sarà un video che non nessuno potrà dimenticare e che ha un valore storico immenso. David, cosa ne pensi? Sì, purtroppo sì, anche io vorrei non aver mai visto queste immagini, vorrei non passare alla storia per quello che stiamo vedendo. Ho visto in uno dei video, dei milioni di video che circolano anche per darsi coraggio, qualcuno dice in questi giorni finiremo nei libri di storia o nei video di storia, ecco, io me lo sarei volentieri evitato, devo dire la verità, di finire. E queste bare che ho visto anche io le foto, i video, devo dire la verità, io non ho molte parole da dire, mi sono commosso quando l'ho viste, in questi giorni mi è capitato, ho pianto, sì, qualcuno dice i giornalisti non dovrebbero, non lo so, non dovrebbero piangere, anch'io sono un essere umano e ho visto quelle bare portate via dai camion dell'esercito e questo ha contribuito a usare la metafora della guerra, no? Che è sbagliata, perché non è una guerra. E quello che adesso sembra una condanna, cioè stare a casa in guerra sarebbe un lusso, e questa per fortuna non è una guerra, anche se quelle immagini, quei camion che portano via le bare, la condensa, perché le metafore fanno comodo, riducono e trasformano e rendono vicino anche ciò che non è giusto, non è lessicalmente corretto, non è l'immagine adeguata. E quindi io non parlerò di guerra, non penso di parlare di guerra, ma erano gli unici strumenti in grado, gli unici mezzi in grado di poter fare quella cosa terribile. Ci sono persone, io ho amici, ho un amico che ha perso il padre, che ha potuto salutarlo appena in tempo e che non si parla neanche di funerale, ci sono, perché non è possibile. Ecco, queste sono cose che a me hanno drammaticamente colpito in questi giorni, in queste ore, e non so cos'altro dire, sono cose che uno non può cancellare facilmente, non può, no, è anche difficile da assorbire, da metabolizzare, sì, da sì, vedere sì, sì. È talmente anche perché, scusami, concludo, una cosa che è veramente, io per lavoro sto tutto il giorno, come tutti noi, insomma, stiamo tutto il giorno attaccati alle notizie, a cercare di raccontarle, ci passa davanti un flusso, arrivano delle scariche di angoscia, devo dire la verità, trasmessa anche attraverso video e audio come questo. E io capisco anche, devo dire la verità, il senso di spaesamento e di sopraffazione che una parte della popolazione vive perché è normale. Ecco. Allora, proprio di questo argomento parliamo tra poco. Viabilità e poi, David, siamo ancora insieme perché voglio tornare su questo argomento. Dimmi quando siamo pronti. Roberta, andiamo in viabilità. One Express, il pallet espresso. Vi presenta... RadioTube Social Network. C'è un ascoltatore al 349-238-6666, dice che questo video è una bufala smascherata. Io mi fido del lavoro di debunking che ha fatto David Puente, perché questa cosa gli è stata chiesta su Open Online. In un momento di confusione la domanda è lecita, le foto, il video sono vere? Purtroppo sì, quindi secondo il debunker David Puente, del quale io mi fido perché fa un lavoro molto rigoroso, no, non si tratta di una bufala. Allora, sempre con David Allegranti, quanti David, vado in confusione, ogni tanto mi scappa un accento da una parte o dall'altra. Allora, David, in questi giorni poi abbiamo avuto, secondo me, delle oscillazioni nell'umore. La settimana scorsa noi a RadioTube abbiamo sentito tutti questi i balconi, flash mob, le cose. Adesso ti faccio sentire un video che ha condiviso in rete Beppe Fiorello. Vorrei fare un appello a tutte le persone che stanno guardando questo video, e a tutti gli artisti, a tutte quelle persone che hanno tra le mani il nostro paese, ai politici, e dico loro di istituire un giorno, uno soltanto, un giorno di lutto nazionale. Per rispetto e memoria delle persone che sono già morte, di quelle che continuano a morire ogni giorno e purtroppo di quelle che moriranno e le loro famiglie. Un giorno soltanto. Chiudiamo tutto e poi torniamo a fare quello che è giusto fare. Stare insieme, stare vicini, intrattenerci. Allora, anche qui, i primi giorni, l'entusiasmo, tutte le dirette Instagram ogni giorno. Prima sentivamo anche Arisa che diceva per qualche giorno mi voglio fermare per rispetto. Siamo in giorni di estrema altalena emotiva, forse normale, ma forse dobbiamo anche un po' tenere duro perché non possiamo lasciarci andare. È difficile capire gli umori, però mi sembra che davvero in una settimana qualcosa, cioè quell'andrà tutto bene, quell'hashtag andrà tutto bene, lo sentiamo scivolare un po' lontano, è umano. Sì, ora io sono un pessimista di natura, quindi già l'andrà tutto bene all'inizio mi convinceva poco, adesso ancora meno, però capisco quello che dici, l'altalena emotiva è... io mi sono commosso quando da Siena è partito quel canto. Che tu poi hai lanciato in tutto il mondo, la settimana scorsa l'abbiamo sentito, sì. Sì, ora devo dire la verità, faccio fatica a apprezzare, mettiamola così, i canti dai balconi, ora... Nel mio palazzo questi giorni non li ho più sentiti e non lo so se sono diventato improvvisamente cinico o altro, però insomma sentivo anche il bisogno di non sentire questi canti dai balconi, quindi capisco l'appello di chi dice fermiamoci, ognuno naturalmente si fa quello che si sente di fare, è difficile anche in questo momento dare dei codici di condotta, nessuno può darli, specie in questi ambiti che non mettono a rischio la salute delle persone, no? Mentre invece fare assembramenti da cretini in mezzo, continuare a farlo, quello è un altro discorso. Però insomma, anche l'appello al lutto nazionale, anche quello, in questi giorni stiamo probabilmente cercando di riscoprire che cos'è essenziale. Naturalmente, questo un po' mi dispiace, ci sono un sacco di persone che pensano che non sia essenziale ciò che minimamente non li riguarda. Questo è un problema. Certo, è un problema, certo, di egoismo. Certo. Ecco, io affiderei tutto a un sincero bisogno e istinto per la umanità e non per la disumanità, e quindi cercherei di capire anche che cos'è essenziale per l'altro. Poi mi rendo conto che sia difficile. Ora, tra le cose essenziali o non essenziali, non so se proprio il lutto nazionale rientri, forse rientra il silenzio, che è un'altra cosa, compreso, ci metto, ma anche qui faccio un volo. Non so più quanto sia utile il bollettino delle 18 con i numeri, anche perché quei numeri purtroppo, come abbiamo anche cercato di spiegare, non dicono più nulla, perché andrebbero disaggregati, andrebbe fatto tutto un lavoro. Insomma, sì, è un po'... Sì. Quindi, non lo so, c'è un problema di eccesso di comunicazione, di eccesso di informazione, c'è stato un eccesso di informazioni anche sbagliate, di comunicazione istituzionale in parte discutibile, che può provoca anche caos e spaesamento. In quanti, diciamo così, ora faccio un discorso generico e generale, in quanti non ci abbiamo capito nulla sulla questione dei supermercati, in quanti abbiamo cominciato a pensare che prima era colpa dell'anziano, poi era colpa del runner, poi dell'anziano che andava a fare adesso spesa. In rete il runner è il nemico numero uno. Sì, perché la gente ora è abituata a cercare... Già in condizioni normali cerchiamo qualcuno a cui attribuire la colpa, no? E adesso, siccome non ci riusciamo a dare la colpa a qualcuno, individuiamo di volta in volta qualcuno a cui attribuire la colpa, e la colpa è il runner, ma non consideriamo il fatto che magari le fabbriche sono aperte, no? Che cosa è più pericoloso? Il runner che corre in solitaria? È difficile. Concludo. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in questi giorni ha ripetuto una cosa giusta, ha detto fermiamo le fabbriche. Allora, e lì saprebbe tutto un altro discorso. È un capitolo complesso. Però io starei attento nell'individuare le responsabilità, tenuto conto che poi ci sono le responsabilità più complesse, più grosse, che riguardano la comunità della classe dirigente. Anche lì bisogna fare le opportune valutazioni senza visini alzati o cose, però non significa non chiedere conto delle responsabilità. Penso che sia un momento in cui è difficile essere razionali, ma ci si può provare. Ci si deve provare, Davide. Quando dici io sono pessimista, non so se andrà tutto bene, andrà per forza tutto bene, perché a un certo punto dovrà andare bene, se no. Allora, abbiamo parlato anche di intrattenimento, di tempo libero in rete, perché il tempo libero ormai si è trasferito, adesso non si fa neanche più la corsetta, io non la facevo neanche prima, non preoccupatevi, io correre proprio non se ne parla. Comunque, esperimento molto carino, facciamo un sospiro, anche un po' di sollievo, ma sempre con grande contenuto, perché in questi giorni su YouTube sta andando in onda questo. Giancarlo Magali, eccoci qua. Mi vedete, mi sentite anche? Ti vediamo e ti sentiamo. Ti sentiamo ed è un piacere vederti e sentirti, tra l'altro, in questa dimensione quirinalizia. Tu non riesci ad uscire da questa dimensione quirinalizia, sei rimasta attaccata. È così. Da qua io rivolgo il discorso alla nazione ogni anno, da questo divano ho fatto il dopo festival in mutande con te. Per ricambiarti, Giancarlo, di quello straordinario regalo, io questa sera mi sono messo mutande. Sono dei boxer anche in gestione. Ecco. Madonna, no, ecco. È un'immagine. Va bene. Fa dimenticare l'epidemia, ecco. È un'immagine consolatoria, la gente dice meno male che dobbiamo stare a casa, pensa potevo incontrarlo. Allora, poi vi racconto un particolare. Meno male che sto a casa, se no incontravo Saverio Raimondo in mutande. Saverio Raimondo! Eccolo! Eccomi qui rigorosamente in mutande, anche per voi. Così si fa. Che bello avere insieme Davide Allegranti e Saverio Raimondo. Già la mia fantasia galoppa, ragazzi. Davide, galoppa. Anche lui in mutande, spero. No, ho una tuta da ginnastica. Vabbè, in questi giorni è così, o pigiamo tuta o mutande. Appunto. Bene. No, lo devo dire che io ho scoperto dove abita, te l'avevo scritto Saverio, Raimondo. Perché ero a casa di una mia amica, a Roma, sì, e ho detto, sì, ma non, tanto non, cioè, è un quartiere in cui non mi conosce nessuno, e sono scesa di casa in pigiama, che ho dimenticato una cosa in macchina, ho visto Saverio Raimondo, mi sono nascosta perché ho detto, oddio no, c'è qualcuno che conosco, ero in pigiama. Però in quel caso io non ero in mutande. No, lui era vestito, ero io che ero in pigiama, perché dico, ma chi mi conosce in questo quartiere? Ero io, perché certo, pattuglio l'Italia, voi non lo sapete, ma io pattuglio l'Italia per beccarvi in pigiama, esatto, e queste sono le mie perversioni, certo. Saverio, allora, in questa altalena emotiva della sofferenza, preoccupazione, dai andrà tutto bene, flash mob sui balconi, no silenzio, non sappiamo più cosa fare, e proprio veramente col cuore che buttiamo ormai oltre l'ostacolo, cioè, senza sapere quale sia l'ostacolo, senza comunque sapere abbiamo buttato questo cuore. Esatto. Tu ti sei inventato il COVID late night, sì, mi esatto, sto impappinando. Che cosa ti sei inventato, Saverio? Ma guarda, ho fatto una cosa abbastanza banale in questi giorni, cioè sono andato in diretta, cosa che ormai fanno 60 milioni di italiani. Sì, sì, anch'io ogni tanto. Io ho fatto anche una live di Instagram, anch'io in pigiama dal letto, proprio. Certo, lo senza vergogna. Lo fanno appunto tutti. Io avevo questa pagina YouTube da anni, praticamente piena di ragnatele, non ci facevo mai nulla. E quindi costretto un po' a casa, come da decreto, ho detto, vabbè, sai che c'è, non ho scuse, metto un contenuto su YouTube, e quindi mi sono inventato questo COVID late night. Ogni tanto lo pronuncio COVID, così, come dire, un po' francofono, proprio per dargli una nota un po' lieta in qualche modo, no? Questo accento alleggerisce quasi, certo, la portata, certo, virale del virus. E quindi faccio una sorta di late night assolutamente improvvisato, con mezzi casarecci, quindi la webcam, l'audio, delle cuffiette, quindi lo chiamo un po' un late night acqua e farina, rigorosamente in smart working, quindi anche gli ospiti sono ovviamente collegati dai rispettivi domiciliari, ed è un late night del tutto improvvisato, dove facciamo ironia, anche satira, leggerezza tantissima, in quell'orario tardo, dalle 11 di sera a mezzanotte, come fosse tra l'altro un programma normale. Cioè, tra l'altro ci tengo a dire, io sono a favore di una moratoria di queste dirette, io vado in diretta dal lunedì al giovedì, ma il venerdì, il sabato e la domenica mi fermo, come fosse un programma normale, perché ormai questa è diventata la nostra nuova normalità, e quindi adeguiamoci facendo cose normali. Ovviamente, appunto, l'avete anche sentito nell'estratto, i mezzi sono quelli che sono, e giustamente una persona commentava nella live chat di YouTube l'altra sera, ecco cosa succede a non pagare ciò che vediamo. Esatto. Bella questa, esattamente, molto bella. Ricordiamoci, infatti, che io lo dico sempre, ricordiamoci sempre che oltre a queste dirette improvvisate più o meno belle, ci sono un sacco di contenuti bellissimi, scritti meglio e girati meglio sulle piattaforme a pagamento, che non avevamo mai il tempo di vedere tutte le serie prima, adesso non abbiamo più scuse, possiamo vederle e approfittiamone. Però ecco, ci piace questa verità, David, non so se ti è capitato di vedere il Late Show di Saverio, questa verità della rete. Io poi rido, l'altra sera che parlavano, lo posso dire, se no, cioè abbiamo già parlato di porno nella prima ora, parliamo di porno anche nella seconda. Vabbè, sì, ma con me non puoi non parlarne, inevitabile. No, che faceva le ricerche su Pornhub in diretta, ma io ridevo come una pazza, cioè proprio non a quell'ora solo, lì. Ma noi consigliamo anche cosa vedere, noi abbiamo attivato l'hashtag consiglia un porno, visto che adesso Pornhub ha la sezione free, e quindi gli utenti, gli ospiti ci consigliano dei porno da vedere, e ne abbiamo scoperti alcuni incredibili. Cito giusto questo caso, l'altra sera Daniela Delle Foglie era nostra ospite, ha scritto un libro, L'amore va nell'umido, ma è anche una esperta, insomma, una fan di pornografia. Mi ha consigliato dove una porno star, al termine, diciamo, del suo lavoro, che possiamo soltanto immaginare, si commuove. Si commuove. Di reale commozione, cioè, piange dagli occhi proprio, e non da altre parti. No, Saverio! È vero, questo video esiste, ed è a suo modo emozionante ed emotivamente cavalca l'onda di questi giorni. Allora, io devo dire, posso dire la verità, è l'ora in cui ci malinconiamo tutti, quella lì. Abbiamo tutte le preoccupazioni, che poi tutti scrivono, vabbè, ma io poi non riesco a dormire, mi preoccupo. E io veramente vi guardo, rido di battute per metà molto sagaci, molto intelligenti, per metà totalmente idiote. Io rido per le seconde, sì, ovviamente. Sì. Io rivendico assolutamente la stupidità di quello che sto facendo. Sì, sì, io non sono giorni. Per la risata intelligente, io sono per la risata proprio quella ignorante, quella che ha messo a star bene. Eh sì, e poi così, nonostante tutte le preoccupazioni reali, io riesco a dormire. Certo, prendo anche alcune gocce, però vabbè, quelle... Ma diciamo che sono un buon combinato, ecco. Cioè, se mi abbini alla goccetta, effettivamente do garanzia di ottimo risultato. È no, vero. Infatti mi rendo conto che appunto sul mio canale YouTube con questo late night molto improvvisato, sto facendo una cosa che... La TV non sta facendo, cioè intrattenimento, anche un intrattenimento assolutamente consapevole e lucido di ciò che stiamo vivendo. Qui non stiamo facendo i balletti negando quello che sta succedendo là fuori, al contrario, sin dal titolo Covid Late Night sono assolutamente consapevole di ciò che sta succedendo e ne parliamo. Però la televisione ha praticamente abdicato all'intrattenere, cosa che fa un colpo non solo e non tanto sulla TV privata, ma proprio sulla TV pubblica, che in qualche modo dovrebbe offrire anche quello che tutto sommato è un servizio, una necessità. E invece la rete si trova così a supplire a questo vuoto. È chiaro, con i mezzi che abbiamo a disposizione, che sono un po' da paleo televisione, però tutto sommato funziona, come si suol dire, come si dice a Roma, vedere si vede, sentire si sente, esatto. E quindi tutto sommato si dà. Allora facciamo una cosa, prima di salutarti Saverio, prima della pausa, Roberta, mandiamo l'altro audio che avevo selezionato, perché c'è la mia preferita, l'altro audio che abbiamo selezionato dal Covid Late Night. Però Saverio, tu non mi apprezzi il fatto che io per te ho fatto come i cronisti ad agosto, mi sono messa la camicia, il correttore e sotto c'ho i pantaloni del pigiama. Allora però io ti ringrazio, ma non vorrei, no, applauso assolutamente. Però io in realtà apprezzo il pantalone del pigiama, cioè io ho scelto questo orario anche perché voglio prendere le persone sfatte, sfinite dopo una giornata di domiciliari. E invece io mi sono messa la camicia, il correttore, il mascara, ma pantaloni del pigiama. Ecco qui, modello di vita. Michela Giraud, che io amo, certo. Beh, bellissima, e che aveva i panni stesi da 10 giorni. Perché dentro casa, sì, e soprattutto le tapparelle della finestra completamente chiuse ermetiche. Io gli ho detto: Michela, guarda che lo puoi far entrare l'ossigeno, cioè quello è legale, puoi farlo entrare. Lei era murata in casa, una cosa assurda. Bellissimo. Poi tutti e tutte struccati, tra un po' avremo la ricrescita, chi se ne frega, mostri. Invece vedi, l'altra sera Caterina Guzzanti, al contrario, ha colto l'occasione di questa di essere ospite alla mia diretta per indossare un maglione e mettersi il rossetto. Vedi, qualcuno ormai prende anche queste dirette come una possibilità, al contrario di risistemazione quasi, ecco. fantastico. Grazie a Saverio, grazie Raimondo, anche perché per il fatto che l'ha messa su YouTube si possono rivedere, non esatto. Spariscono come le stories di Instagram, andate a trovarle. Covid Late Night sta lì sul mio canale YouTube, tutte le puntate finora fatte, da lunedì torniamo in diretta sempre alle 23. Dai, che vengo meraviglia. Ecco. Anzi, invitaci, voglio venire in diretta al Late Night, io e Davide Allegranti. Va bene, l'avete detto, quindi ci siamo. Una mia convocazione. Saverio, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Allora, facciamo una breve pausa, David, poi siamo ancora insieme. Sì. Tu come sei messo a cucina? Mi arrangio. Ok, dai, pausa e poi parliamo anche un po' di cucina. Radio Tube Social Network. Rieccoci insieme per l'ultima mezz'oretta, anche meno, sono le 17:37:57 a Radio 24 di Radio Tube Social Network, sempre col co-conduttore d'eccezione Davide Allegranti, dalle pagine del Foglio, dalla sua casa romana in cui fate il lavoro, collegato con noi. Eccoti ancora, David. Ti faccio sentire due audio. Il primo è quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Eccolo qua. Ricordate le immagini dei giovani che facevano la movida? Tutti allegri, ammucchiati l'uno sull'altro, magari dopo aver bevuto dallo stesso bicchiere. Tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Bene, chi vuole essere lieto sia, quelli che volevano essere lieti 10 giorni fa, adesso se ne sono andati lietamente negli ospedali e hanno mandato in ospedale lietamente i loro papà, le loro mamme, i loro nonni. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. E invece questo è il sindaco di Delia in provincia di Caltanissetta, Gianfilippo Banchieri. Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni e a Delia quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Ma vogliamo fare le persone serie? Davide Allegranti, cosa pensi di questi due? Io devo dire che ogni tanto, a me è successo l'ora fa, ogni tanto ti viene veramente però da sbroccare così, Sì, ogni tanto viene da sbroccare. Io capisco anche questi sindaci, questi governatori che si trovano a vedere alcune cose e cercano di trovare le soluzioni. C'è anche qualcuno che diciamo così fa cose poco comprensibili. De Luca era seduto nel suo ufficio, mi sembra. Allora io lo volevo prendere quell'altro audio che tu stai, però poi dicono sei contro di lei, però ieri c'è stato un video che era un po' meno efficace comunicativamente. Beh, c'è una sindaca che è andata, una sindaca, sì. Ora non so se si può fare o non fare come per le Marche, per cui non si dice il no, nome. È che dopo dopo arrivano i messaggi che noi siamo capito. Sempre contro di lei, ella. Ho capito, allora vabbè, tanto diciamo così, una sindaca di una città del centro Italia, una sindaca che credo, ma ho dei dubbi certe volte, governi la città in cui io sto per lavoro, quindi governa o sgoverna, dipende da. Oh, l'ha detto Davide Allegranti, No, adesso se mandate i messaggi di insulti li mandate a Davide, non a me. Sì, volentieri, mi faccio io da parafulmine, non c'è problema. Ha fatto questo video dove, mi risulta, che fosse fuori, insomma, no? E quindi secondo me ci deve essere stata una grande riunione, un trust di cervelli, come si dice lì in comune al Campidoglio. Hanno detto: Virginia, che cosa possiamo fare? Andiamo fuori a fare un video e diciamo a tutti che devono stare a casa. Sì, non è stata una grande idea comunicativa. Non lo so. Insomma, ecco, ho qualche dubbio. Devo dire la verità, poi De Luca, invece, se vogliamo prenderlo. De Luca ha sempre questo stile rude e comico, nel senso che dice cose terribili ma ti fa ridere. I carabinieri con il lanciafiamme. Ora purtroppo in realtà l'esercito in 3 regioni a fare dei controlli è arrivato. L'ultimo è una autorizzazione che ha dato ieri il Comitato per l'Ordine della Sicurezza in Lombardia, per cui mi sembra sui 140 militari andranno in giro a fare i controlli. Questo poi non è il momento, perché sennò aprirei tutto un discorso su altre cose che ci porterebbero lontani. Poi insomma il punto è che stiamo assistendo a una stretta anche libertà personali, di cui poi parleremo un'altra volta. Poi dovremo vigilare dopo, esatto. quando sarà però, andato insomma, tutto bene. Esatto, sarà andato tutto bene. Però insomma io capisco anche l'appello dei sindaci che responsabilmente dicono non vi assembrate nei parchi, perché guarda, secondo me questo è un tema. Ci sono persone che sono noncuranti degli altri, e dei soggetti più deboli, dei medici e degli infermieri che stanno lavorando e che avrebbero bisogno di un sollievo, nel senso che non aiutarli, aiutandoli a non ammassare di più gli ospedali, tutta una serie di cose che ognuno di noi può contribuire a fare. E mi verrebbe da dire che il buon senso serve, ma il buon senso purtroppo è difficile da individuare. E quindi a un certo punto capisco anche il sindaco che sbrocca, che dice, qualcuno usa anche parole sbagliate che non dovrebbe usare. Però insomma, però te l'avevo detto, David, che arrivava il messaggio. Riccardo, ma è possibile che avete sempre la raggio in bocca? Salvini che passeggia, Zingaretti che fa gli aperitivi. No, era questo video che era assurdo, che le dice di stare in casa da un parco. Non era, cioè, non, parlavamo del video. Ah, signor, del dai, video, dai, sì, no, certo. Parliamo di cucina. Parliamo di cucina, David, dai. Sì. Finalmente io imparo, ragazzi, a fare il pane. Ragazzi, allora oggi facciamo insieme quel pane che molti di voi hanno visto sulle storie di Instagram che ho preparato l'altra sera, che è un pane facilissimo per chi non sa fare il pane, tipo me, che vi darà un sacco di soddisfazione perché veramente è poco impegnativo, pochi passaggi, potete organizzarvi i tempi come vi pare e quindi è proprio un pane, diciamo, delle emergenze. Ragazzi, facilissimo, lo può fare chiunque. Io no, scommetto che non posso fare nemmeno quello. Un pochino di cosa, però sto cucinando, sto facendo solo cose sane, sto veramente cucinando per benino e seguo ovviamente i consigli della migliore di tutti. Abbiamo parlato di lei settimana scorsa, non potevo non evocarla. Benedetta Rossi, bentornata Benedetta. Ciao a tutti, ciao. Che meraviglia averti. Tu come stai? David, tu la conosci Benedetta? Vabbè, per forza. Sì, adesso sto cercando di imparare qualcosa, visto che insomma sono all'ABC della sopravvivenza, insomma, sul cucinare. Ok. Stasera hai già preparato le cose, David? Cosa ti prepari questa sera? Ah, un'ottima domanda. Allora, a me piace molto la pasta integrale, mi faccio una pasta integrale con uno dei 27.000 sughi che ho comprato in questi giorni. Vabbè, mezza cucinata, mezza no. Benedetta, invece, cosa possiamo consigliargli? Allora, guarda, io in queste occasioni opto sempre per un buon bollito, perché faccio c'ho la carne cotta e col brodo poi mi faccio una bella minestrina, oppure faccio gli straccetti che sono tipo una cosa fatta con le uova e il parmigiano che si usa qui da noi. Bello, vero! Si chiama stracciatella, la chiamiamo anche noi. E quindi magari, ecco, metto a cuocere la carne con un po' di verdura, con un bel po' d'acqua, col brodo mi ci faccio, ecco, una minestrina, poi la carne la condisco con dei sottaceti e sono a posto. Ma fantastica. Allora facciamo una brevissima pausa perché poi ho un po' di cose da chiedere a Benedetta, che è veramente nei nostri cuori e nelle nostre dispense. Tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Eccoci qua. Allora, Pippo DJ, che lo conosco, ho preso tutto il necessario per fare la torta mimosa con le fragole dell'altra diretta video. Eccolo là, dall'altra parte del vetro. Beh, se la fai, io ti dico quando sono in turno che la porti, Pippo. Benedetta, allora noi qui abbiamo veramente dei fan che seguono, che ti seguono tantissimo. Allora, in questo periodo, quanto senti che le tue signore hanno voglia di seguirti, di seguire le tue dirette, di seguire i tuoi consigli? Perché sono importanti, è qualcosa che ci fa sentire la vicinanza anche della tua cucina, che non è poco in questo momento difficile. Ma guarda, ti passo le giornate a rispondere ai messaggi appunto delle signore che cercano un po' di conforto, un po' di sicurezza, un po' di rassicurazioni, no? Ma non tanto per quello che sta succedendo, ma proprio una rassicurazione da parte di un'amica, e quindi veramente mi alzo la mattina e la sera vado a dormire tardissimo proprio cercando di curare il più possibile questo aspetto. E poi nel frattempo cerco anche di portare dei contenuti che possono essere comodi, che possono far comodo un po' a tutti, e quindi facciamo magari qualche diretta in più su YouTube, facendo ricette che insomma possono un po' aiutare in questo momento di di difficoltà sia psicologica che di non potersi muovere, quindi stare chiusi in casa. Sì, anche perché i primi giorni mi sembrava che tutti volessero fare i grandi cuochi, no? Poi anche esatto. Quel dopo l'entusiasmo un po' scema, Sì, perché prende un pochettino di devo confessare che anch'io sono un po' confusa, perché non avendo notizie sicure su quello che sarà, insomma, un attimo un po' ti prende un pochettino di paura, un po' d'ansia. Però ecco, diciamo che ritrovarsi tutti intorno a una cucina, un attimo a parlare, spegnere un attimo il TG e non sentire le notizie, può darti quel momento di serenità e ti fa ritrovare anche il piacere di stare insieme. Sì, ad esempio a me anche guardare appunto le tue stories di Instagram con Marco, saluta tanto Marco, tuo marito. Che sta qui, che io mentre sto parlando con te mi disturba, capito? Vabbè, ma perché Marco è un dispettoso, vedere che portate fuori nuvola, insomma, ci date molta, molta serenità, molta, insomma, così, familiarità, e forse abbiamo bisogno, ecco, di questa familiarità. Sì, guarda, io ti giuro che noi ogni mattina ci facciamo mille domande, nel senso di come ci dobbiamo comportare sui social, se è giusto comunicare delle cose piuttosto che altre, se è giusto scherzare in questo momento un attimo di paura, ma poi sono proprio le persone che ci dicono: guarda, abbiamo bisogno di quel momento di leggerezza che ci fate passare per Marco, e quindi decidiamo magari, ecco, cerchiamo di non essere eccessivi, però di essere comunque presenti, di far sorridere, insomma, ecco, cerchiamo di fare questo, oltre che appunto dare dei consigli e dare, che ne so, postare ricette che possono essere utili. Per questo faccio qualche diretta in più su YouTube. Anche esatto, e anche ricette magari con non tantissimi ingredienti. Perché sai che noi andiamo a fare la spesa, non è che proprio abbiamo, cioè riesci a consigliarci delle cose, delle ricette con le cose che abbiamo in casa, e questo è particolarmente importante. Sì, e poi quello che sto cercando di fare in questi giorni è proprio rispondere a tanti messaggi, perché il problema sono le sostituzioni. Quindi, che ne so, la signora mi dice: guarda, certo, ma io vorrei fare questa torta, non c'ho lo yogurt, come faccio? Posso mettere il latte? E quindi sono migliaia e migliaia di messaggi ogni giorno per cercare di risolvere i piccoli problemi di economia domestica, insomma, di organizzazione, per cercare un attimo di dare una mano per quello che riesco a fare io. Che meraviglia, Benedetta Rossi è splendida. David, cioè, potresti persino tu avere dei consigli, cioè, incredibili, persino con quello che hai in casa tu potresti fare delle ricette. Esatto, cioè, quindi non affidarmi ai sughi in scatola, mi stai dicendo, è un invito a non... Beh, in effetti sì. Ora io... T'ho messo in difficoltà, Sì, mi ha messo in difficoltà, perché nel senso che sono piuttosto basico, nel senso che sì, so come si fa un piatto di pasta, so come si... Come si apre un barattolo! Come si apre un barattolo, so come si apre una confezione di insalata, e come si mette dentro un'insalatiera, e come si mette l'olio e il sale. Questo, ecco, lo so fare. Ecco, però poi, ecco, la parte successiva è piuttosto elaborata per me, e quindi, insomma, devo imparare. Ecco, magari in questi giorni cerco di imparare qualcosa che vada oltre la sopravvivenza. Questo però posso dirlo, sono molto bravo sulle colazioni. Oh, nel senso, che è il pasto più importante, si sa. Sì, sì, per me sì, cioè, nel senso che se non assumo degli zuccheri la mattina, sto abbastanza messo male, quindi lì mi esibisco per un pubblico ristretto, cioè me stesso, però va bene, insomma, ecco, anche lì si può migliorare, credo, insomma, però ecco, però per ora mi sembra, me lo dico da solo, quindi mi rendo conto che non valga nulla, nel senso che mi faccio i complimenti da solo. Vabbè, però in questo per periodo ora, però rimando dai. Su scusate, cosa ho scoperto in questi giorni grazie a suggerimenti, non so se si dice bene la granola proteica, si dice, e va bene, pare che faccia bene, non so se stai attento a se c'ha dentro lo zucchero, perché a volte quelle lì c'hanno troppo zucchero, controlla. No, sono non c'è nulla, infatti non sanno di niente. No, scusami, no, non devo dirlo. Okay. Non sanno di un sacco di cose, specie se ci metti un chilo di miele o lo zucchero di canna. Se ci metti un chilo di miele, Benedetta, che cosa dobbiamo dire? Che cosa dobbiamo dire a questo ragazzo? Non lo so. Mi sa che ha bisogno. Magari se si ricorda come faceva la nonna quando era piccolino, magari io vengo da quella conoscenza lì, nel senso che io mi ricordo nonna che apriva la dispensa, aveva un chilo di farina, quattro uova e poco altro, riusciva comunque a preparare un piatto di pasta piuttosto che un secondo con una frittata, con le erbe di campo, insomma. Quindi io direi di ritornare un po', di cercare di ricordare come facevano le nostre nonne in questo momento di difficoltà, no? Che la nostra credenza, insomma, soprattutto quando passano un po' di giorni da quando si fa la spesa, insomma, bisogna un po' organizzarsi. Vero, vero. Benedetta, io ti posso mandare un messaggio, un abbraccio grandissimo, anche perché so rispondi a tanti messaggi, sei di una gentilezza, poi sei diventata anche un meme perché ormai tutti ti citano, vabbè, è deliziosa. Allora, viva Benedetta Rossi, viva anche Marco, viva Nuvola, il canino che noi siamo sempre preoccupati, siamo sempre lì a controllare come sta. Un abbraccio grande, ti disturbiamo ancora, ti chiamo ancora ogni tanto, siamo tutti dai. Chiusi in casa, un abbraccio grande, ciao Benedetta, grazie mille. Pensavo, perché avevo detto, dopo Fatto in casa da Benedetta, io avevo la mia nuova rubrica che è Distrutto in casa da Marta, e sta andando molto bene. David, dai, ci sarebbero mille video questa settimana, ci sarebbe Bono che canta pensando all'Italia. Ci sarebbe l'inno dei medici che è stato diffuso oggi dal ministero con il molto testo bello di Mogol. Bello, bello, bello. Io però avrei scelto un video educational su come ci si lavano le mani. Cioè una canzoncina per lavarsi le mani che è nelle tendenze di YouTube, che è stata postata da questo canale che è Scottex, con CS, non so se lo conosci. Sì, perché è CEO, CEO, ha fatto ha fatto questa canzoncina che secondo me è perfetta per lavarsi le mani. Lui è bravissimo, sentiamo la canzoncina. Sapone, lavandone, 3, 2, one. Mi sto lavando le mani, lo. Posso smettere ora? No. Uffa, mi sto stufando, sai che posso fare? Contare tutti i numeri che riesco a ricordare. 1, 2, 3, mi sono stufato di contare i numeri, è noioso. Allora elenchiamo gli animali. Tigre, tigre, tigre, lucertola, tigre. Mi vengono solo in mente due animali. Quanto tempo manca? Uffa, uffa, uff. Ancora 20 secondi, sono stuf. Ora mi invento delle parole per passare il tempo. Zobbo, clufo, sdramba, obo, bobo, bobo, bo. Ho forse quasi finito la canzone. Mi sciacquo le mani nello sciacquone. Cos'è quell'ombra misteriosa fuori dalla finestra? Ah, una tigre, muoio con le mani pulite. Vabbè, fantastica! No, Cio è meraviglioso. Se qualcuno lo conosce, insomma, ha Twitter, Instagram, dove tutti i giorni pubblica dei fumetti meravigliosi. Io lo conosco e lo amo molto, perché devi sapere che io sono un lettore di Topolino. Ah. E lui è un autore di Topolino, è bravissimo, quindi lo adoro. È anche molto simpatico, l'ho visto a un Lucca Comics quest'anno, non mi ricordo più quando, l'anno scorso, ed è bravo. Allora, noi impareremo la sua canzoncina per lavarci le mani, dura un minuto e 5 secondi, e le mani saranno pulitissime. Grazie a Davide Allegranti per essere stato con noi, ti abbraccio fortissimo. Anch'io. Non vedo l'ora di averti in studio quando si potrà. Un abbraccio grande. Spero anch'io, un abbraccio. Grazie a Davide Allegranti. Ciao. Devo fare anche tutti i miei ringraziamenti a Roberta Frisani in regia, a Edoardo Lavezzari qui in redazione, ad Alessandro Schirano là in redazione a Telelavoro, e noi ci ritroviamo la prossima settimana.